Comunque, adesso una canzone dedicata ad un problema sociale, perché noi non siamo solo degli stupidi, yeah, come ci vedete qua, ma però... Come ci definisco? Ma però, vi ricordiamo di andare sul sito www.burdello.com, nel quale potrete fare varie cose, tra quali scrivere al vecchio che è un... E guardare le donne nude. A meno che non veniate qua questa sera, voi che siete all'ascolto. Vedo che è partita la base, quindi devo fare il Piero Angela. Lo sapevate? La sindrome mestruale colpisce le donne dai 12 ai 52 anni per un totale di circa 2500 giorni di vita, che sono quasi 7 anni. Ebbene, a questo problema così importante e diffuso, noi Burdello, in quanto portatori di tematiche sociali, abbiamo voluto dedicare una simpaticissima canzoncina. Vi amo tutti.